quante canzoni che ho cantato per te, solo per illudermi e illudermi ancora, che quello che avevamo fosse amore vero. Usavo la mia voce per amarti, e poi era col silenzio che piangevo. È stato un insuccesso scrivere d'amore, noi come un concerto senza neanche spettatori. Dimmi se può avere senso se cantiamo per distrarci con le favole. E allora adesso dimmi se è già finita tra noi, io che sto sanguinando e tu che mi spari cowboy. E poi mi dice a voce bassa, sussurrandomi all'orecchio, che era un gioco, un passatempo. Ma mi fai male, lo sai, è una canzone che non so cantare perché un fallimento, io e te, non c'è più niente da dire. Mi fa male ritornare da te, ma non ti accorgi che era solo un insuccesso. Io cantavo e più il tuo sguardo era violento con me, è prevedibile insuccesso questo amore. Ma che peccato in fondo, cosa ci ha diviso, nostra nel profondo, l'abitudine di chi è indeciso. E ti ho scritto una canzone per illudermi che mi vuoi bene, mentre canto queste note. Ma no, non è possibile. Sì, se è stato un insuccesso scrivere d'amore, noi come un concerto senza neanche spettatori. Dimmi se può avere senso se cantiamo per distrarci con le favole. Mi fai male, lo sai, è una canzone che non so cantare perché un fallimento, io e te, non c'è più niente da dire. Mi fa male ritornare da te, ma non ti accorgi che era solo un insuccesso. Io cantavo e più il tuo sguardo era violento con me, che prevedibile insuccesso questo amore. Sanguinando e tu che mi spari cowboy, e poi mi dici a voce bassa, sussurrandomi all'orecchio, che era un gioco, un passatempo.